Pronto, sarà il 39 forse. Cominciamo a registrare così. Allora... e ciao. Con me c'è Roberta, Jacopo e Andrea. E io ho il volume a manetta. Buonasera. Ok, ora forse si è ripreso. E dicevo benvenuti, non dirò il numero di questo episodio perché non so quando uscirà. Episodio che tratta di un regista molto amato da noi, da tutti noi, e, che si chiama, non ce la faccio, ditelo voi. Che si chiama Wes Anderson, basta. E che è un regista americano del 69 e che è diventato famoso per essere un hipster. Sì, sì, cioè di fatto 50 è così. Anni? Non cosa? Non sconvolto. Va bene, aspetta che vi alzo un po' i volumi che siete un po' bassi. Allora, tu hai questo nome imbarazzante, tu hai quest'altro nome e tu hai questo nome che non ti riconosco. Andrea, di qualcosa? Ehi. Bravo, Andrea. Allora, scusatemi, problemi tecnici. No, dicevo, appunto parliamo un po' di Wes Anderson, non parliamo di un film in particolare, mi pare di aver capito, perché io volevo parlare di Tenenbaum. Poi però tutti volevano parlare di Hotel, Gran Budapest Hotel, ma io non lo volevo vedere. E quindi la morale della favola è che ne parliamo in generale. Tu non volevi vedere neanche i Tenenbaum, in realtà. Me li avevo già visti i Tenenbaum, quindi non li ho rivisti, bene così. Che dire? Allora, intanto è un regista che ha fatto ormai un suo buon numero di lavori. E... Allora, utilizza sempre gli stessi attori, da quello che ho capito, perché alla fine lavora sempre con le stesse persone e tratta sempre gli stessi temi. Ma sì, la sua particolarità, diciamo, più evidente è che gli piace lavorare con una palette colori fissa. Sì. Ok, e per questo è un hipster di merda. Tant'è, cioè, lui praticamente apre la cartella delle elementari, prende i pastelli Giotto e poi comincia a colorare gli storyboard. Ma non tutti i pastelli, cioè solo i colori di temperature calde, non fredde. Ah, quindi ci spezza a metà il pacco da 24 e prende solo... Sì, perché l'unica fredda che usa è grigio e ogni tanto l'azzurro per fare il contrasto, tipo in Grand Budapest Hotel è tutto rosa-azzurro. Comunque, se vi interessa, ho scoperto che c'è una... su GitHub c'è un software per avere la palette colori di Wes Anderson applicata a quello che volete. Vabbè, no... ci provo un cazzo... Cazzo utile però, non lo so. Sì, vabbè, insomma. Allora, di che cosa vogliamo parlare? Allora, parliamo di... cominciamo con... Allora, intanto io volevo trattare di... No, non è vero. Gli altri mi hanno costretto... Altri mi hanno costretto a parlare di Wes Anderson e io avevo visto solo i Tenenbaum, che è un film del 2001 e... che ha i soliti attori suoi, tipo Owen Wilson e Bill Murray e... Scusa, ma come fai a saperlo? Se hai visto solo quel film, come fai a sapere che usa... Non sto dicendo che non è vero. Sto dicendo come fai a sapere che usa solo quei colori. Perché ho studiato. Hai studiato tanto? Ah, cavolo, ok. Allora, no, vabbè, no, c'è un motivo. Comunque, non dire così, Andrea. No, volevo dire, allora io ho visto solo i Tenenbaum, che è un film appunto del 2001, che ha i suoi soliti attori, in più c'è Ben Stiller e Gwyneth Paltrow, che mi sa che hanno fatto solo quello, ma non è importante, e, che parla un po' del nulla, parla di una famiglia un po' ritardata, un po' 104, e anni 70, con parecchio ricca, e parla un po' dei problemi che hanno questi figli, il solito tema che lui tratta sempre, dei problemi col padre, tutte queste puttanate qua. La verità però è che, visto che non sono riuscito a identificare la trama in tutto il film in mezzo a tutti i colori e i vestiti che ha usato, io non ho più visto un cazzo di Wes Anderson. Al che sono andato a cercare delle... Prima di registrare questa puntata, ho fatto un mini sondaggio tra i miei conoscenti e mi hanno consigliato più o meno di guardare film diversi. Ho guardato anche alcune classifiche di film migliori di Wes Anderson. Non vedete che sto virgolettando tutte le cazzate che dico. Vabbè, comunque. Verrà virgolettato dopo sul sottotitolo del podcast. Insomma, una classifica anche. E anche vabbè, non posso. E dei film migliori di Wes Anderson, e ognuno aveva il suo punto di vista. Quindi mi piacerebbe per prima cosa sapere, voi che siete super esperti di Wes, qual è la vostra classifica di film preferiti? Adesso sono tutti uguali, però vabbè. A cominciare da, allora, so che Andrea ne ha visto uno solo. Già. Come? Quale? Gran Budapest. Ah, ok. E quindi ci dirà il suo parere sul film dopo. Ma prima sentiamo Roberta, qual è la sua classifica? La classifica. Allora, primo posto i Tenenbaum. Secondo Vabbè. posto è... No, Ok. non ti stiamo giudicando. Ho sentito Sala che ti giudicava come un'esalazione. Ah, ma tanto sono tutti uguali, voglio dire. Secondo posto, il treno per Darjeeling. Ah, inaspettato. Vogliamo anche un terzo? Indecisa perché Gran Budapest Hotel in realtà non mi ha soddisfatto, devo essere sincera. Non Bestemmia. tale da essere come terzo. Qual è il terzo, scusa? Va Ci sto pensando, bene. aspetta. Uno dei E suoi primi di cui non mi ricordo il titolo, aspetta, controllo, Rushmore? faccio questa cosa un po' carina. Rushmore, probabilmente. Rushmore, bravissimi, sì, Rushmore. E perché allora, cioè la classifica si basa su, cioè qual è il criterio? Così, Beh, sentimento sentimento. perché alla fine estetico, sono tutti sentimento. identici. Ma non è vero, dai, parlano sono tutti identici. Cioè, No, escludendo allora, Wes gli Anderson. stop motion. Nessun ha Dai, quelli. una caratteristica, cioè tu capisci subito che è un suo film, cioè ha un marchio di fabbrica bello evidente che Ma qual è la è nel fotografia, la sceneggiatura, i vestiti o la trama? marchio di fabbrica? Beh, Esatto. direi no, direi la fotografia. Ok. Perché anche gli altri, insomma, va bene. Jacopo invece? No, la composizione, dai. No, non è quello, la La classifica. composizione, guarda, Rushmore è molto diverso da i Tenenbaum, Ma cioè si vede che sono anche due stagioni estetiche diverse. Rushmore è palesemente il primo film che ha fatto È il suo primo. in cui non poteva svaccare più di tanto. Poi Rushmore è dopo. primavera, Tenenbaum estate, diciamo. No, va, Come palesemente stagione. lì. Sì, però anche il treno per Darjeeling non ha questa simmetria Comunque, così evidente come nell'ultima fase. È tutto molto meno plastico. Anima, dove secondo me proprio raggiunge l'apice tra l'altro è quello della dopo. fotografia. Beh, però la palette colori è la stessa. No, Rushmore effettivamente è più non di normale. Rushmore, il treno di sti cazzi Freddo. con i Tenenbaum. Comunque, come, beh, Fase intermedia, la mia secondo classifica non è per niente, diciamo, sorprendente, perché penso di averlo ripetuto 500 volte in 2 minuti dopo averlo visto. Primo, Gran Budapest Hotel. Secondo, Moonrise Kingdom. Terzo, boh, forse Fantastic Mr. Fox. Allora, tutti diversi, a me incredibile. Io ho visto appunto i Tenenbaum e allora Ah ho no, aspetta, chiesto. anche Moonrise Kingdom, adesso mi ci fai pensare, merita, sì, Per me Moonrise forse di stare Kingdom in è la Finlandia. cosa più banale, cioè no, più banale, più quando pensi al meme di Wes Anderson è Moonrise Kingdom, cioè più, ancora più di Budapest Hotel, secondo È me. perché c'è Bruce Willis. Esatto. È un sequel segreto di Unbreakable, ancora più segreto di Glass. Ovviamente. No, dicevo, avevo visto i Tenenbaum, che secondo me è un film orrendo perché appunto non ha trama, o meglio, ha una trama totalmente irrilevante e scontata e proprio boh, una roba, vabbè. Però No, però allora se tu guardi l'estetica è un bel film, se ti basta questo. Se invece tu da un film vuoi vedere di più rispetto a una cartolina, allora magari può aver senso evitare questo film. E dopodiché ho chiesto, l'ho guardato online, è online il secondo film più votato, e anche stavolta ho fatto le virgolette, è Il treno per Darjeeling. no, davvero? Perché dicono che la trama è una trama. È un treno che va in una direzione e quindi si muove, la trama va Esatto. avanti. Invece, sondaggiando le altre persone, i due film che mi hanno consigliato di più sono appunto Moonrise Kingdom e mi è stato consigliato anche Le avventure acquatiche di Steve Zissou. Sì, Allora, è vero. visto che le avventure acquatiche di Steve Zissou è un film flop, e mi sono andato a vedere quello. Ah, scelta interessante, mi piace. A me è Perché ho piaciuto detto, come film, a me Sì, piacciono i anche a film me è brutti, piaciuto. quindi Quindi ci può stare. ho pensato, magari se la mia mentalità diventa è un film brutto, è il film migliore della storia. Esatto. Allora, tralasciando Riguardo alla che trama, è vero, cioè non posso dire. La trama è effettivamente la solita. è quella un po' conclusionata. La trama è Sì, però c'è standard. scavo psicologico del personaggio Ma non è e vero, cioè, i semplicità estetica. personaggi di Anderson sono caratterizzati Sì. per essere stereotipi. Stereotipo, sì, è vero che sono stereotipi, nel senso che bene o male in ogni film tu ritrovi quel personaggio, però è come dire, stereotipato bene, Ma non sono neanche cioè persone è talmente reali. tanto bene stereotipato. Quello è il bello. E questo è il bello, il fatto che siano talmente, secondo me, studiate a fondo, cioè è proprio dallo stereotipo che si innesca la riflessione. Ma è un Cioè, fantasy non so degli anni se. Ottanta. Sì. È un po' il problema di Wes Anderson, è la nostalgia per una roba che non ha mai vissuto. Un po' Un fantasy come degli anni citando Ottanta. Caparezza. Un fantasy anni Ottanta. Cioè, il fatto degli stereotipi. Allora, è vero che in generale gli stereotipi sono brutti, però alcuni trop, cioè alcuni, diciamo, stereotipi cinematografici sono utili quando la tua concentrazione deve essere sul tema generale, Ah no, sul gli fare stereotipi non bene. sono brutti in determinati generi. Cioè, se uno mi fa Esatto, sì. vedere l'eroe fantasy che è palesemente un eroe, a me può stare anche bene. Però se poi mi dice che questo è un film d'autore, a me sta sul cazzo. Dipende sempre dall'intenzione. Secondo me, da quello che sta cercando, cioè su cosa si concentra. Per me Wes Anderson non gli è mai fregato un cazzo di fare personaggi fuori, cioè, fuori dal comune. È sempre molto sul questo è il mondo, questa è la, come posso dire, queste sono le relazioni e cerca di farle in maniera realistica, ma sempre in maniera molto cartonesca, sempre per dire qualcos'altro, sempre per cercare la nostalgia, per cercare la scena, per cercare la composizione e dire qualcosa con quello. Per quello mi è piaciuto Gran Budapest Hotel, perché è quello che ha, secondo me, più espressione di quel tipo, cioè più scene. È un po' come Baby Driver. Baby Driver è pieno di di stereotipi, ma è uno dei miei film preferiti perché è tutto al servizio della forma. Non è un film E d'azione, Baby anche Driver, però. Cioè, la oddio. trama è l'azione e la musica. Era la musica, Sì, cioè, però tu puoi però è un dire, film cioè, d'azione. però io non lo sto giudicando come film d'azione, per me è proprio bello come film, e anche Gran Budapest Hotel è proprio bello come film, cioè, non. E anche lì, non è solamente un film, diciamo, riflessivo, c'è anche abbastanza azione in un certo senso in Budapest Hotel. E, Non lo va so. bene, Andrea, Grand Budapest Hotel, cosa mi dici? No, niente, boh, a me è piaciuto molto, l'ho trovato molto carino. Poi quando ho capito che Gustav era Voldemort, lì sono Fantastico il morto. personaggio. Sì, troppo bello. Troppo figo. Ma hai notato, Andrea, come cambiava l'ambientazione, cambiava anche l'aspetto, cioè come posso dire, il formato della pellicola. Cioè In che senso? che tipo quando passava che ne so, dal presente agli anni 60 agli anni dell'hotel, cambiava il rapporto dell'immagine, non so come dirti, Ah, tipo da 4/3 a 16. ok, sì. Ma una cosa che ho notato, non so se cioè è una roba che fa sempre lui o non lo so, che c'è cioè, molti film immagini sono molto simmetrici, cioè, quasi tutto è tutto Sì, simmetrico, non so. si fa le seghe con la simmetria. Ah, ok, è proprio lui Sì. che. È il suo tratto, uno dei tratti predominanti in realtà. Penso che sia un po' ossessivo compulsivo. È lo stile. No, infatti, cioè, uno dei motivi per cui uso un sacco i modellini è perché con quelli puoi essere veramente maniacale. Infatti, ha fatto anche a Love Dogs con la cultura giapponese, cioè, c'è una Ah, scena dove un tizio fa sushi, prepara il sushi, che è proprio una masturbazione di simmetria e precisione. quello mi hanno detto, cioè ho sentito che era carino, però non l'ho Carino, sì. visto, Anche l'Isola dei Cani. quello niente di che, molto standard, però proprio Ma dicevo, tornando su. Allora, io appunto ho visto Le avventure acquatiche di Steve Zissou e mi è piaciuto. Zissou, boh, vabbè. Mi è piaciuto molto, però perché è tipo una serie di sfortunati eventi. Cioè, è palesemente. sì. L'unico problema è che si ferma poi lì, perché una serie di sfortunati eventi continua a essere un libro per ragazzi, mentre questo invece vanta, cioè pensa di essere un film d'autore, un film hipster. E sì, lo è, però da questo punto di vista è scarso. Secondo me. Non c'è abbastanza rosa salmone. Sì, esatto, cioè è veramente scarso. Ha lanciato un genere, no? Film hipster? Degli occhiali tense? Beh, No, scusa, però è dimmi vero. un altro regista hipster. Cioè, la mia domanda è questa: il suo vanto è di essere un bravo regista o di essere un bravo sceneggiatore? No, non sceneggiatore, scusa, scenografo. Scenografo. Ma secondo me lui non è che c'ha un particolare Importante vanto. definire, cioè una definizione che non ha perde di significato. Cioè, un po' come dire, cioè, per me Wes Anderson è un po' come dire Tarantino ha creato il dialogo alla Tarantino, No, che nessun questa altro. è una cazzata. Secondo me, Wes Anderson è tipo Woody Allen, nel senso, è uno che ripropone sempre le stesse quattro fregnacce. Se ti piace, bene, se ci stai, bene, è un cinepanettone. Se non ti piace o se comunque ne hai visto uno e li hai visti tutti, basta, è finito. Anche Tarantino, però, puoi metterla un po' così. Oddio. Tarantino cambia genere ogni film. Beh, Insomma, sì. alla fine puoi Però sempre non è la pensarlo come stessa un genere cosa. alla Tarantino. Cioè, cambia il pretesto, ma Comunque sì, cioè non sto dicendo che Tarantino e Wes Anderson sono sullo stesso piano, però dico, per me l'impatto che ho avuto nell'impostare alcune scene è lo stesso, è il motivo per cui è facilmente riconoscibile anche quando, cioè anche vedi tipo un frame, che sia un film di Tarantino, di Wes Anderson, anche di Woody Allen. Cioè, per me, sì, dopo un po' ti rompe i coglioni, però non detrae dall'esperienza iniziale. Cioè, come dici, se ti guardi un film Tarantino sono tutti uguali, sì, però per me è tipo... come cazzo si... Scusami, però puoi declinarlo più o meno veramente su qualunque autore, ma su qualunque No, arte. no, alcuni autori sono Sì, più ripetitivi di altri, no, però no, tipo Harry a pezzi sì, per me è ma comunque un grande sicuramente film. non è Anche lui sbagliato, ma per particolarmente questo non è un particolare grande, di non è un altri. grande regista. Non lo so, per me Non sì, è. però boh. Cioè, nel senso, quello che dico io è che secondo me lui. Non è un cinema d'autore, siamo d'accordo, però No, è ne un non è cinema neanche d'autore. particolarmente valido perché dopo avere, cioè lui ha questa formula qua e basta, non mi dà nient'altro. Boh, a me ha dato più che in un solo film. Però comunque anche avessi visto solamente Il Grand Budapest Hotel e fosse l'unico film davvero che mi ha lasciato qualcosa, comunque mi ha lasciato tanto. Quindi per me, non lo so. No, ma non sto dicendo che fa dei film brutti. Sto dicendo che non sono particolarmente belli. Nel Ok, no, senso anche che. questo è un parere Eh? soggettivo comunque. Che cosa? No, Dico, è un tuo parere soggettivo. no, beh, certo, ovviamente, tutto il podcast È è un mio tutto parere soggettivo. soggettivo, Che cazzo di discorso è? esatto. È il pretesto del podcast. Ok, sì, è vero, è tutto soggettivo, però ci sono degli autori sui quali immagino, cioè dei registi sui quali concordiamo che si tratta di un qualcosa di autoriale, no? Ma Wes certo, Anderson. ok, cioè l'ha inventato a lui sta cosa. Il problema è che lui ripropone la sua cazzo di formula da 20 anni, ma c'è solo questo, cioè c'è solo il filtro tense sulla lente e poco altro. Senza che ti fai il figo che conosci i No. filtri. Che filtro è, tra l'altro? No, non è un filtro, è Tens, è l'azienda di occhiali da sole che ha brevettato appunto la lente col filtro Wes Anderson sopra. Ah, ok. Bene, bene, mi piace. Secondo me non è soltanto un filtro, secondo me è proprio uno stile e anche un modo di leggere il mondo che poi sia particolarmente ripetitivo e sia particolarmente evidente il suo stile, siamo d'accordo e può piacere, come dici tu, se ti piace, non ti stufi neanche di vedere 30 film così, se ti piaciucchia, ne vedi uno e poi dici basta perché non mi dà niente di più. Cioè, nel senso, Per me sì, cioè, dai gusti personali. è difficile essere d'accordo anche sulla definizione di grande regista, cioè, perché alcune cose sono troppo vicine, secondo me, cioè, per giudicarle. È come dire, cioè, un conto è dire, che cazzo ne so, Orson Welles con Quarto Potere ha cambiato il cinema, quello lo sai, cioè lo studia, la gente lo studia, può giustificartelo in 50 modi diversi. Per questi qua più recenti, secondo me è più difficile. Chiaro, però questo è praticamente Tim Burton. Ma anche Tim Burton, cioè, per me hai azzeccato il paragone effettivamente adesso, perché Tim Burton pure fa grandi film, secondo me è un grande regista, ma fa sempre più o meno la stessa cosa e ha fatto anche film di merda. Secondo me Wes Anderson ha fatto meno film di merda di Tim Ma ne ha Burton. fatti, secondo me ne ha fatti meno non perché è particolarmente bravo, ne ha fatti meno perché la formula è la stessa, mentre Tim Burton, quelli di merda, sono quelli un po' Beh, tipo... Che oddio, cosa? anche lì più o meno si ripete. Però... No, certo, no, ma non sto dicendo che Tim Burton è un regista migliore, sto dicendo semplicemente che ha cannato dei film perché ne ha fatti 500.000 Sì, anche quello è vero. e cioè ha cannato quelli un po' più Commerciali, esatto, più... in cui ha fatto semplicemente quello che gli hanno detto di fare, tipo Dark Shadows, tipo Alice in Wonderland, queste No, cose qua. aspetta, Dark Shadows non è difendibile perché ci ha messo l'anima. Quindi se ti piace la serie TV, da cui è preso, magari ti gusta pure il film. Ci ha messo lo stesso. Però è così orrendo, e c'è sì. anche Eva Green, quindi è bravo Andrea. Non è così orrendo. C'è sempre Batman, non ragazzo. Nel senso. Sì, ho capito. È imbarazzante. Ma Batman comunque, è imbarazzante. È un discorso complicato questo, perché secondo me c'è appunto... La ripetizione non è sempre negativa, ma dipende che cosa ripeti, dipende che cosa ci fai. Cioè, se fai letteralmente sempre lo stesso film è un conto, ma se no, fai... No, Cristo, anche gli attori sono gli stessi. Però è sempre... c'è sempre abbastanza di diverso di stile, di... come posso dire? Come si chiama? Dai, quando un film è... setting, come si chiama in italiano? Vabbè. Dove come è impostato come epoca, come ambientazione. Sì, sì. È sempre abbastanza diverso, quindi boh, non lo so. D'accordo. Se li vedi tutti, appunto, a parte che c'è stata un'evoluzione, cioè non è che è rimasto uguale a se stesso da Rushmore, si è evoluto ed è cambiato. Vabbè, da Rushmore sì, però da ma solo Rushmore è diverso. Anche Bottle Rocket, che è proprio il primo, però non sì, so, a parte quei due. Ma secondo me anche le avventure acquatiche rispetto al Grand Budapest Hotel, no. Beh, ma scusa, io non ho visto Grand Budapest Hotel, ma c'è il rapporto col padre? C'è una figura paterna. Il vincitore è... Se puoi fare... No, allora, se fai un gioco alcolico con Wes Anderson, muori. Cioè, ti viene l'epatite, non lo so, ti viene la... Beh, però tutti gli autori hanno dei temi preferenziali, cioè, di cosa parliamo? No, però Wes Anderson... Beh, oddio. Ti esplica abbastanza, effettivamente. Cioè, questo è praticamente Woody Allen. Woody Allen è uguale, cioè, ha sempre gli stessi cazzo di personaggi. Sì, no. Oddio, però... Woody Allen, Woody Allen ha fatto anche 500 film in più comunque. Esatto, non voglio smerdare Wes Anderson, Woody Allen ha fatto Match Point. Sì, e sì, Scoop, sì, vabbè. E, parliamo di numeri e diversi. Pezzi e Zelig, cioè sì, ha fatto sì. roba classiconi, Quindi non lo so. Però diciamo che il 50% dei suoi film ripete un po' gli stessi personaggi. Tipo basta che funzioni, tipo sì, sì. Ma Allen ci sono delle tematiche, cioè, che ricorrono praticamente in quasi tutti i film, ma per me può essere un grande regista, esatto, può essere un grande regista e comunque ripeterti, come può essere un grande musicista e ripeterti, fare la storia, cioè sì, però qua non è che stai ripetendo solo la trama, stai ripetendo la trama, la cosa, i colori, gli attori. No, non è vero, cioè ti invito a guardare qualche altro trailer e a guardare cioè è vero che magari, che ne so, guardi Fantastic Mr. Fox, alcuni elementi di costruzione dei pupazzi sono gli stessi di Isle of Dogs, però ci stanno sì, ci sta roba in Isle of Dogs che è... Ma raga, di che cazzo stiamo parlando? Il Fantastic Mr. Fox è doppiato da Bill Murray, da Owen Wilson e da Jason Schmack, cioè gli stessi attori. E quindi? Cioè, e William senso... Dafoe. Cioè, è tipo in famiglia. Sì, però, cioè... Non vedo qual è il problema, se fanno personaggi abbastanza diversi. È come dire Tarantino, vabbè, Samuel L. Jackson ha fatto 50 persone diverse in 50 film diversi. Chiaro, no? Chiaro. Cioè, per me, diciamo, l'attenzione che ha lui per la scenografia, il montaggio, i colori, la composizione... E non accorgersi che sono gli stessi attori. No, vabbè... Esatto, c'ho un problema che non riconosco le fisionomie delle persone, esatto. Quindi mi hai scoperto, per me non sono tutti diversi sempre. No, vabbè, ho capito, comunque ci sta. Vabbè, magari adesso me li recuperavo, cioè alcuni li avrei recuperati anche volentieri, e per vedere. Dovevo scegliere, ho scelto quello perché appunto era un flop, e quindi ho detto vediamoci un flop, magari mi piace tantissimo. Ma domanda, Sala, ti piacciono la pasticceria, quella di precisione tipo mezza francese e giapponese? Hai detto una parola sbagliata in tutta l'ho detto apposta per capire. No, perfetto, allora puoi guardare Grand Budapest Hotel e bestemmiare come un cane. No, no, no, no, no. Si capiscono molte cose. Va bene. William. Defoe. William. Vabbè, la vuoi mettere male. Ecco, volevo... volevo mettere male, era sempre qua. No, vabbè, vabbè. Sì, ho capito. Certo, chiaro. Chiaro. E, volevate dire qualcos'altro del vostro regista preferito? Ah, voglio dire a Marco, spero che... Spero di aver difeso abbastanza il tuo regista preferito, Marco. So che ascolterai questo podcast con il dolore al cuore. E qual è il film preferito di Marco? Non gliel'ho chiesto. Se dovessi tirare a indovinare, direi... Gran Budapest Hotel, ma solo perché il mio voglio tirare acqua al mio mulino. Io non lo so. Va bene. E l'altro Marco? L'altro Marco, l'altro dice... Marco ha, una, ha un... allora, diciamo, come, come direbbe lui in questo momento? Gaga. Va bene, ho fatto anche il mio lavoro. E niente, dai, volevate aggiungere qualcosa? Nope. Ok, allora se ci siamo tutti, questa sarà la mia ultima puntata, visto che ho insultato... come avevo predetto, tra l'altro. Adesso ti verrà tolta la tessera dell'hipster. Esatto, qui, la tessera dell'hipster. Ma no, è che io sono hipster e mi dà fastidio che anche lui sia hipster, cazzo. Ah, è vero. Tra l'altro, ocra, che quest'anno va di moda, il colore hipster numero uno. Ah, esatto. Ok, elettrico? Sì. Ok. Importante. Grazie di averci seguito e non so quando uscirà questa puntata, quindi buon Natale o buon anno a scelta, o buona Pasqua. Esatto. Buona Pasqua. E niente, ciao ciao ciao ciao ga ga ga.